Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. Angela Merkel si prepara all'uscita di Atene dall'euro, lo scrive Die Bild tedesco, che cita fonti molto vicine ai negoziati. I colloqui tra la cancelliera tedesca, il premier greco Tsipras e il presidente francese Hollande si sarebbero conclusi con l'amara constatazione che il debito della Grecia non è più sostenibile. Tre ordini di motivi avrebbero spinto Merkel a gettare la spugna. In primis l'ennesimo rifiuto di Atene anche durante l'ultimo colloquio delle proposte europee, come ad esempio l'aumento dell'IVA. In secondo luogo la constatazione espressa dal Fondo Monetario Internazionale di grandi divergenze. Ultimo, ma non in ordine di importanza, il crescente dissenso all'interno del partito di Merkel, la CDU, e il rischio di un voto negativo al Bundestag su un eventuale ulteriore pacchetto di aiuti. La produzione industriale positiva dello 0,1% ad aprile rispetto a marzo, sia nell'Eurozona che nell'Unione Europea 28, torna il segno meno invece in Italia con meno 0,3% dopo due mesi positivi, lo dice Eurostat. A marzo la produzione industriale era scesa nella zona euro di 0,4% e nella UE 28 di 0,1%, su base annua invece aumentata di 0,8-1,2 tra gli stati, dove sale maggiormente Lituania più 3,4, Svezia più 2,2, il Portogallo più 2,1, i cali maggiori in Croazia, Malta, Grecia e Polonia. La Commissione europea ha dato parere positivo alla richiesta dell'Italia di autorizzare il cosiddetto split payment, la scissione del pagamento dell'IVA, una misura prevista dalla legge di stabilità e già entrata in vigore il 1 gennaio del 2015. Si tratta di una misura che mira ad evitare le frodi che si registrano per quanto riguarda il pagamento dell'IVA. Prevede che le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi paghino l'IVA addebitata dalle imprese fornitrici direttamente all'erario e che rimborsino successivamente i fornitori. Il voto in Turchia cambia gli equilibri non solo in Medio Oriente. Secondo gli analisti, la politica estera del paese subirà numerosi cambiamenti. In primo piano c'è ovviamente la Siria, ma in molti iniziano a sottolineare come il nuovo corso turco possa ridare fiato agli europeisti alla ripresa dei negoziati sul trattato di adesione all'Unione Europea, paralizzato di fatto dalla stretta autoritaria imposta da Erdogan. Anche in caso di ripresa negoziati non è prevedibile un ingresso a breve, dice Valeria Talbot, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, al microfono della nostra Maria Luisa Pezzale. In realtà la situazione dei negoziati di adesione tra Turchia e Unione Europea è molto più complessa di quello che si rappresenta, nel senso che è vero che gli eventi in Turchia degli ultimi due anni, quindi la stretta autoritaria e anche appunto un'erosione del principio di ripartizione dei poteri erano stati molto criticati da Bruxelles. È anche vero però che i negoziati di adesione tra Bruxelles e Ankara sono bloccati anche da altri fattori, primo tra tutti l'irrisolta questione cipriota. Quindi finché appunto non ci sarà una soluzione della questione cipriota, la Repubblica di Cipro, che è membro a pieno titolo dell'Unione Europea dal 2004, continuerà a porre il proprio veto su importanti decisioni e sull'apertura di capitoli negoziali con la Turchia. La questione è da vedere anche in un'altra prospettiva, nella prospettiva di Bruxelles. Il presidente della Commissione europea, Juncker, durante il suo insediamento a novembre 2014 ha detto che nel corso dei cinque anni della sua presidenza alla Commissione europea non ci saranno nuovi allargamenti. 14:06:11, vi saluta qui Daniele Biacchiesi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.